si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, cari ascoltatori. Non sentite che bel silenzio, che bel silenzio elettorale? Insomma, si potesse stare sempre così in assenza di inutili chiacchiere politiche da bar che poi non concludono mai niente. È un po' lo spirito di Si può fare, per noi non cambia molto in questo programma dove i protagonisti siete voi, gli ascoltatori, le persone con le vostre storie, con le vostre iniziative concrete che ci dimostrano, insomma, che ce la possiamo fare. Si può fare con o senza la politica, con o senza quello che sarà poi il nuovo Parlamento che ci aspetterà e dovremo parlarne naturalmente moltissimo da tutte le parti. Notizie che aspettiamo numerose da parte vostra anche sul nostro profilo Facebook, Si può fare trattino Radio 24, su Twitter Si può fare 24 e poi sul nuovo sito di Radio 24 nell'home page campeggia ancora per un po' il sondaggio di questo primo anno del programma. Vi chiediamo di votare, di scegliere le storie che vi sono piaciute di più, che abbiamo ospitato in questi primi 12 mesi. Chi vincerà avrà la possibilità di tornare in trasmissione a raccontare l'evoluzione della propria storia. Invece voi che votate potete portare a casa, vincere, insomma, un soggiorno, una vacanza soggiorno sostenibile offerta dagli amici di EcoTube. Ma andiamo a cominciare con qualche notizia della settimana. La prima è veramente una buona notizia, viene da Piacenza. Ci sono degli incentivi quando la pubblica amministrazione fa il suo dovere, il suo lavoro. Incentivi proprio per creare lavoro. Giovani tra i 25 e i 30 anni hanno il tempo fino al 28 di febbraio per portare la loro domanda e creare un'attività artigianale, avranno la possibilità di ricevere dei finanziamenti da parte della provincia di Piacenza. Insomma, quando davvero la pubblica amministrazione fa la sua parte e aiuta i giovani a creare delle imprese. Quest'altra notizia qua invece è una cosa che ha a che fare con le eccellenze italiane, per dire anche un po' delle nuove frontiere nella scienza. Sentite qua, mano bionica con senso del tatto, entro l'anno ci sarà il primo trapianto, io credo anche che sia il primo caso al mondo, e a farlo è un collaboratore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Silvestro Micera. La prima operazione sarà a un ragazzo di 20 anni di Roma che per un incidente ha perso la mano. Insomma, un caso d'eccellenza della chirurgia, ma anche delle nuove tecnologie che riguardano l'Italia. Questa settimana si è parlato molto questa carne di cavallo apparsa all'improvviso, senza che nessuno se l'aspettasse, nel piatto, no? di molti italiani. Allora noi ci siamo chiesti, esiste un'alternativa a tutto questo? Cioè, sì, c'è, è quella dei prodotti locali, prodotti a chilometro zero, che sono forse più controllati. Sicuramente sappiamo quello che ci ritroviamo nel piatto. E allora, stili di vita, consumi consapevoli, questa è una piccolissima notizia che viene da Anguillara, però ci insegna che si può fare. La Casa del Latte, installata sulla Anguillarese al chilometro 4,5, cosa succede? Che si mette un euro, si porta via a casa il latte fresco, latte crudo, latte intero, pagandolo meno di quello che si paga nei supermercati, e si sa cosa si porta a casa, cioè un prodotto naturale a chilometro zero. E anche di questo vogliamo parlarvi oggi in questa puntata. Tra poco, cominciamo subito. In Brasile i semafori hanno il countdown e non si aspetta al semaforo e non si aspetta neanche alla partenza. Riguardo agli ospedali, proposta: fermo restando l'assistenza sanitaria, possibilmente esentando dalle etichette, e addebitare a costi politici il mangiare, è ovvio che il paziente che gode della tessera di povertà sarà esente da pagare. Vantaggi: rientra anche se in piccola parte delle spese di ristorazione, richiesta da parte degli stessi pazienti di ridurre la degenza e di utilizzare al meglio il day hospital. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte. Bevete più latte! Bevete più latte. Non so dove siamo andati a scovare questa canzone degli Avion Travel. Ci siamo fissati sul latte oggi. No, abbiamo detto che parliamo di se c'è un'alternativa a questi stili di alimentazione che insomma poco ci soddisfano a volte quando abbiamo a che fare con la grande industria, e ci siamo rivolti ai prodotti locali. Salutiamo Claudio Frascio, che di lavoro fa il lattaio, ma ha una vera e propria impresa in provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Latte è un prodotto sempre straordinario, Claudio? Sì, sempre straordinario. Come va col mercato? Insomma, abbastanza bene? Sì, abbastanza bene, dai. Con questa nuova idea abbiamo tirato su bene, dai. Perché la notizia che abbiamo visto sul giornale di Brescia è questa. Come lei e un suo amico, che salutiamo, Beniamino Bazzoli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Titolare di un panificio, Linea Pane, sempre in provincia di Brescia. Vi siete messi insieme, insomma, uno fa il pane, l'altro fa il latte, lo distribuite insieme, lo portate a casa delle persone, praticamente una sorta di negozio a domicilio. Claudio, lei da quanto tempo fa produce latte con i suoi animali? Dal 2005, settembre 2005, abbiamo iniziato a produrre, a mettere una stalla e a produrre latte, che consegniamo direttamente, e da circa un mesetto che facciamo questo tipo di, che è stata questo tipo di iniziativa, e da un mesetto che è nata. Mi sembra di aver letto che riuscite ad avere anche dei prezzi abbastanza competitivi. Cioè, dei prezzi competitivi per proprio quel discorso del trasporto e di tutto quello che c'è nella produzione del latte a livello così nostro, di stalla, di azienda, che non abbiamo dipendenti, lavoriamo noi. Nucleo familiare, io e la mia compagna, e così tiriamo su i nostri animali, li alleviamo e produciamo tutto latte. Naturale, naturalmente, perché poi quando si parla di prodotti naturali, di prodotti in alcuni casi biologici o prodotti a chilometro zero, spesso vediamo schizzare i prezzi verso l'alto, perché si dice beh, certo, la qualità ha il suo prezzo. Invece lei mi dice che si riesce anche a tenere il prezzo basso. Latte e i suoi derivati, per esempio, che cosa poi portate a domicilio? Diciamo del buon yogurt, dei dessert, del burro, delle formagelle, qua della nostra solita formagelle, dello stagionato, un po' tutto ciò che riguarda il latte. Ecco, ma il litro di latte, no? Che poi si dice sempre, quanto costa il litro di latte? Lei, quando fanno le battute tra politici, non sa neanche quanto costa un litro di latte, perché è lontano dalla vita vera. Quanto costa un litro di latte, Claudio? Allora, un litro di latte, allora, al consumatore costa 1,45 euro, è un prezzo sicuramente competitivo e di altissima qualità, perché è di altissima qualità. Quindi se io vado in un supermercato posso magari trovare qualcosa anche meno, però magari qualcosa anche di più come prezzo. Sicuramente può trovare a meno, ma sicuramente non sarà un latte di vacche sole pezzate rosse, che è una razza come di il suo, che noi abbiamo solo quel tipo di vacche, abbiamo fatto questo tipo di genetica, e sicuramente si può trovare di più, a un prezzo maggiore nel supermercato. Però magari chi l'ha assaggiato poi sa che è buono e vuole quello, e quindi diciamo che allo stesso prezzo si può avere una qualità migliore. Beniamino Bazzoli. Ciao, sono qui. Allora, lei è l'altra parte, no, di questa storia, perché voi andate insieme come Totò e Pepino, cioè non basta uno che produce un buon prodotto, lei anche produce il pane, però poi ci vuole questa rete di distribuzione. Voi avete creato un sito e poi andate in giro col furgone, il suo, che già portava il pane, e adesso carica anche i prodotti di Claudio. Si può fare cronache da un paese migliore. In compagnia dei nostri amici Claudio Frascio e Beniamino Bazzoli, che dalla provincia di Brescia ci stanno raccontando come si sono ingegnati, si sono inventati la possibilità di portare a domicilio prodotti della loro campagna, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità che insomma ci piacerebbe tanto di ritrovare sulle nostre tavole. Beniamino, prima di tutto, voi avete un vostro panificio e vendete il pane, producete e vendete il pane normalmente, no? Sì, io gestisco, siamo quattro fratelli, un panificio pasticceria, e passiamo è nato come pane, ma oltre il pane facciamo alle torte nuziali, al cioccolato, di tutto. Siamo conosciuti per i lievitati. Ah, ecco. Grandi lievitati tipo colombe, panettoni, così si riavvicina la stagione. Fra poco è Pasqua, quindi diciamo con la colomba già ci fate la prima parte dell'anno. Poi con Claudio avete pensato di incrementare il vostro business trasportando anche i suoi prodotti. Sì, praticamente lui mi aveva accennato come poter fare a portare il latte a domicilio, ma non spendere soldi in furgoni che dopo devi ricaricare il prezzo sul latte. Io ho già i furgoni sulla strada, mi accontento di quasi niente, e però così arriva al cliente. Una piccola provvigione, ma come ritrovate i clienti? Questa è la parte importante. Ho già una mia clientela a domicilio col pane, più servo diversi negozi qui in valle. E quindi è fatto, il gioco è fatto. Ha aperto lei la strada, adesso anche a Claudio, e quindi chi sono i vostri concorrenti? Cioè, voi come vivete, per esempio, il confronto? Quando si parla della grande distribuzione, delle multinazionali, c'è stato questo scandalo questa settimana della carne di cavallo che non doveva esserci in alcuni prodotti alimentari. Voi come vivete tutto questo? Ma noi siamo abbastanza sereni, perché nel caso conosco Claudio, so cosa gli dà da mangiare alle mucche e quindi mi è molto più semplice sapere cosa do ai miei clienti, no? E dopo quella grossa distribuzione siamo anche concorrenziali, nel senso che abbiamo un buon prodotto a un costo inferiore, ad esempio un latte fresco pastorizzato dell'industria, marca che sia, è sempre sotto 1,75-1,80 euro. Noi con 1,45 euro riusciamo a fornire un ottimo prodotto, insomma. Ecco, benissimo, insomma, complimenti per quello che fate, in bocca al lupo, andate avanti così. Vogliamo dire anche il nome del sito, perché avete anche un portale che adesso va di moda, no? La gente si collega su internet, sceglie un po' quello che vuole e poi gli arrivano i prodotti a domicilio. Come si chiama il vostro sito? Il nostro portale è www.certocotidiano.it e alla fine dell'allestimento ci manca ancora un qualche cosa per fare in modo che anche la spesa di spedizione possa essere appetibile, per poter arrivare poi dappertutto. La prima colomba, il primo latte, ve lo mandiamo in studio, dai. Va bene, grazie, aspettiamo. Oh, mi raccomando, perché se non ci lasciate a bocca asciutta, non si fanno queste promesse, bisogna mantenerle. Siamo di parola. Va bene, grazie a voi per quello che fate. Era solo una piccola storia in provincia di Brescia, però insomma ci dimostra come si può fare, veramente si può, insomma, i prodotti a chilometro zero possono funzionare se c'è una piccola rete di distribuzione. Oggi va molto di moda, sono infinite possibilità, portali, siti dove si vanno a scegliere prodotti buoni, ci riportano a casa, spesso costano anche meno. Che cosa volete di più dalla vita? I conservanti, amico, fanno male, te bonno manna puro all'ospedale. La gente però è sempre capocciuna e su ste cose proprio non ragiona. Ma che non ce lo sai, la roba ghiotta non è quella che trovi già precotta. Il piatto fatto in casa non se batte, de certo è meglio delle scatolette. Meglio perderci più tempo che mangiare le porcherie. Ma che te magni, stornelli romani. Anche qui siamo andati a scovare una rarità assoluta nel panorama musicale italiano, perché vogliamo insistere su questo concetto della sostenibilità alimentare e non solo. Adesso però, parlando di una iniziativa nuova, un po' curiosa, Orti d'Azienda, un'associazione nata da poco. Salutiamo il presidente di questa Onlus, Umberto Puppini, buongiorno. Buongiorno. Un'associazione Onlus che si propone di andare a creare, ad aiutare le aziende a farlo, degli orti all'interno delle aziende. Ora, non so se detta così può sembrare una mezza follia, Umberto, è così? Beh sì, lo è sicuramente, ti ringrazio anzi di riconoscermi come una membro. Sana follia, insomma, ecco, sì. Ma è quello che ci dicono tutti spesso, però abbiamo il piacere poi di incontrare dei nostri simili che condividono la nostra pazzia. Perché siete partiti da questo concetto, da questa idea dell'orto in azienda? Beh, in realtà è un concetto molto più serio di quanto non sembri, e anche con una storia che è poco conosciuta. Allora, tutto nasce da una idea fatta tra colleghi di ufficio, collaboratori. Noi ci occupiamo normalmente di ambiente, di rinnovabili, di geotermia, e quindi un giorno ci siamo interrogati su quello che poteva essere il nostro futuro, anche sollecitati dalla vicenda di Expo 2015. cioè dall'idea iniziale che voleva che là nell'area comparisse un orto cosiddetto planetario, ovvero le produzioni di cibo di tutti i paesi del mondo. A me è sembrata un'idea molto bella e ci sembrava che potesse aiutare a fare condividere il messaggio che Expo vuole mandare, cioè quello di produrre cibo in filiera corta, per esempio, tra gli altri, e di farlo condividere anche da aziende che normalmente non producono cibo, che non fanno parte di quella filiera. E così siamo andati a cercare indietro dove queste iniziative erano già state realizzate. Allora, negli Stati Uniti sono partiti una decina di anni fa e le più grandi aziende, come molte grandi aziende, a cominciare da Google, quelle del terzo avanzato, hanno costruito orti per i propri dipendenti. E poi abbiamo scoperto che in Italia queste esperienze sono fatte, al di là delle esperienze del dopo lavoro anteguerra, sì. Che hanno anche loro una loro storia in parte diciamo sensata, con anche nel dopoguerra, per esempio con il Corriere della Sera, che nel proprio dopolavoro teneva un orto per i dipendenti. Insomma, voi volete rilanciare un po' questa tradizione anche gloriosa dell'orto, anche inteso come dopolavoro, anche questo è un concetto vecchio, oggi si parla di socialità, di altre cose, ma alla fine si gira intorno un po' ai stessi concetti. Senta però una domanda, perché in questi tempi di crisi, mi consenta la battuta, non c'era bisogno di voi con gli orti in azienda, le aziende sono già abbastanza la frutta per conto loro, cioè pensate di trovare ascolto con questa proposta, che non so poi quali diciamo benefici può portare. Gli ortaggi, non siamo alla frutta, quindi la frutta viene dopo, di solito. Quindi siamo un passo prima, però. Ho detto che abbiamo abitudini alimentari, sì. E quindi perché? Perché in realtà troviamo dei riscontri, non è solo a cominciare da noi stessi, noi abbiamo costruito nella nostra attività un piccolo orto e l'abbiamo utilizzato, e ci siamo divertiti un sacco a pensarlo, a costruirlo e a usarlo. Sì. E in realtà abbiamo trovato le persone che ci seguono. Noi non pensiamo più all'orto d'azienda, non pensiamo all'azienda come effettivamente un'attività dopo lavoro. Queste cose, la differenza tra momento del lavoro e lavoro non è più così drammatica, così netta come in passato. E allora, se durante il momento del lavoro possiamo anche, oltre che fare la pausa del caffè, staccare e dedicare un attimo a mondare l'erba morta piuttosto che l'erbaccia, potrebbe essere divertente, sicuramente. Un antistress formidabile, è un modo per unire, per creare coesione in ambito di azienda e per anche abbattere le gerarchie o per smussarle. Perciò noi riteniamo che questa proposta abbia diverse possibilità di coniugarsi e anche di farlo in contesti poco abituali. L'azienda può essere qualunque cosa, può essere un ospedale, può essere in realtà anche una cooperativa sociale che dà aiuto a persone che hanno problemi. So che state lavorando anche al progetto di un primo orto in un teatro in Italia, forse nel mondo, o forse non esageriamo, perché magari chissà. Esageriamo, però sicuramente in Italia è probabile, nel mondo non sappiamo, ma stiamo controllando. Chi fosse interessato, avendovi ascoltato, insomma, a entrare in questa idea, nell'idea un'azienda, sto parlando di creare, di o anche un dipendente che vuol suggerire questa cosa qua, certo, ai titolari della sua azienda, no? Come fa per entrare in contatto con voi? Dunque, noi siamo da Onlus, quindi noi siamo sul sito orchidazienda.org oppure su Facebook, che si può trovare piuttosto facilmente. E quindi proponiamo all'azienda, o tramite il lavoratore che vuole canalizzare questa idea verso il proprio datore di lavoro, o tramite il datore di lavoro, proponiamo di costruire un gruppo che usa uno spazio dato dall'azienda in uso semplice per attivare un orto. Noi diamo un supporto per la formazione, un supporto per l'avviamento, un supporto per la costruzione del gruppo, ma dopo tendiamo a lasciare che questo germe cresca e vada avanti da solo. Quindi noi siamo solo lo strumento attraverso il quale l'azienda può avviare e impostare questa attività. E va bene, insomma, in bocca al lupo, verremo a trovarvi più avanti quando ci saranno degli altri casi da raccontare e quando questa nuova iniziativa avrà preso piede. Grazie intanto a Umberto Pupini, presidente della Onlus Orti d'Azienda, e viva tutti gli orti d'azienda. Si può fare. Cronache da un paese migliore. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like. like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 20 knives in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sound like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, ain't nigga roll that weed up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I don't walk with a limp. In the hood, in the lady, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like. Insomma, trovare lavoro è difficile, però se entri nel club, in the club, è il titolo di questa canzone, di questo celebre rapper americano. Se entri nel club dei disoccupati è più facile. Come nel club dei disoccupati? Sì, nel club di quelli che cercano lavoro e che si danno una mano. Un'idea nuova, Job Club. Salutiamo Nicola Giaconi, che è uno degli ideatori e animatori di questa iniziativa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Una rete, un network di persone che si aiutano. L'idea in sé non è nuova, però voi l'avete messa in campo con nuovi mezzi, con nuove modalità. Giaconi, di cosa si tratta? Sì, l'idea non è nuova, esiste dagli anni 70. Parte dal presupposto, parte da un paio di presupposti che nel mercato del lavoro sempre più complesso l'incontro fra domanda e offerta spesso avviene tramite autocandidatura e le stesse aziende preferiscono cercare attraverso i network perché danno una maggiore garanzia. E cosa abbiamo fatto noi? Per organizzare questi gruppi in cui le persone condividono i contatti e si aiutano a cercare lavoro, abbiamo solo costruito una piattaforma web 2.0 che permette l'aggregazione, la creazione dei gruppi spontanei. All'interno di questi gruppi voi pensate si possano creare le condizioni per scambiarsi delle informazioni, darsi veramente una mano, insomma, per trovare lavoro. Anche se c'è una cosa che mi incuriosisce, non è che c'è concorrenza tra chi cerca lavoro, cioè non c'è la paura di che potrebbe essere un freno, no? Non ti do i miei contatti perché poi magari il lavoro lo trovi tu anziché trovarlo io. Sì, a volte ce lo chiedono, ma in realtà, dato che i gruppi sono formati da persone di età diverse, che provengono anche da mercati del lavoro diversi, spesso i contatti miei, non è detto che servano solo a me, i contatti non sono solo contatti lavorativi, sono i contatti del network sociale, per cui se conosco qualcuno che non è detto che serva a me, lo posso presentare, può essere un contatto buono. Per una persona che ha interessi diversi. Insomma, magari facendo qualche esempio, perché in effetti, non so, mettiamo che io abbia una zia che vuole imbiancare la casa e nel mio club c'è uno che fa lavori manuali di questo tipo, l'imbianchino, cosa che non farei io, gli passo il contatto e il gioco è fatto, una cosa di questo tipo, no? L'esempio è molto semplice e si va dall'imbiancare la casa a trovare un amministratore delegato, perché siamo a quei livelli lì. Non è detto che tutti abbiano lo stesso livello di competenze, però ognuno di noi conosce almeno, c'è questo numero, almeno 150 persone bene che permettono di metterlo in contatto a sua volta con un numero molto molto grande di persone, di tutti i livelli e strati sociali. E a che punto siete nella creazione di questa rete, di questa iniziativa? In quale zone d'Italia siete più forti? Come sta andando questo network? Diciamo che noi abbiamo dato solo la possibilità di creare i gruppi, e, è partita da un mese, è partita da poco più di un mese perché poi i gruppi hanno iniziato a formarsi e diciamo ci sono molti enti, associazioni cooperative, Informa Giovani, Centri Impiego che hanno già aderito dando la disponibilità a ospitare i gruppi e siamo almeno a 10 gruppi partiti e una ventina altri che si stanno formando, diciamo che sono più frequenti nel centro-nord, soprattutto nel nord. Al sud ne stanno partendo due, ne è partito uno l'altro giorno a Castellammare di Stabia e tanti auguri. Sarebbe bello poter accogliere tutti i casi positivi andati a buon fine, tutti i casi di successo e così metterli in bella mostra in modo da invogliare. Come si fa se qualcuno vuole aderire? Quali sono i vostri contatti? È semplicissimo. Uno va su www.jobclub.it, job-club, e se vuole pianta una bandierina, proprio letteralmente, e invita colleghi, compagni, amici sconosciuti a crearsi. Dopodiché, quando sono almeno 6 o 7, gli mandiamo una mail in cui si possono incontrare per far partire questo club. Gli diamo anche dei materiali su un kit. Anche voi avete il vostro kit? Sì, è gratuito. Oh, è tutto gratuito perché è un'iniziativa volontaristica, quindi sì. Fa parte, diciamo, mi occupo di ricollocamento da un quarto di secolo ormai. E ho seguito tanti job club anche in Germania, in Francia e in Inghilterra e ho voluto proporre questa cosa che un po' mancava in Italia. Senta Giaconi, una curiosità, no? Lei si sta occupando di questo da molti anni, sta cambiando il modo in cui le persone che cercano lavoro si approcciano a tutto questo? Qualcuno dice che non è un fatto positivo il fatto che si abbassino le aspettative, no? Magari uno studia, si laurea e poi però cerca lavoro, non dico come in bianchino, però magari per cose dove il titolo di studio non è richiesto. Questo secondo lei è un fatto di realismo, un approccio più pragmatico alla ricerca del lavoro, oppure è un ritorno indietro, una cosa negativa? Lei come lo vede? Allora, guardi, questo ha a che fare con l'attuale situazione economico-finanziaria e non ha a che vedere col modo in cui le persone cercano lavoro. Cioè, il fatto che si propongano al ribasso purtroppo è una necessità adesso che viene spesso cavalcata anche da qualche azienda. E c'è un analfabetismo secolare, ma in tutto l'Occidente, sul fatto che da quando il mercato del lavoro si è fatto più complesso, i metodi per cercare lavoro non sono più quelli di 50 anni fa, non sono più quelli in cui c'era il collocamento e molte persone utilizzano i metodi che funzionano di meno, ad esempio l'invio indiscriminato dei curriculum, quando invece il mondo si sta muovendo sui network, sui social, con le agenzie, con metodi molto più veloci e che garantiscono una maggiore fiducia del candidato. I metodi cartacei o che si basano solo sui database non hanno mai funzionato tanto e oggi proprio non funzionano più. Sono i dati del Ministero del Lavoro, tra l'altro, che pubblicizziamo. Ce lo dico, sì. Va bene, in bocca al lupo anche a voi per questa iniziativa e in bocca al lupo soprattutto a chi sta cercando lavoro e se ha capito, è rimasto interessato da questa iniziativa, basta andare sul sito Job Club oppure su Facebook e provare anche questa strada qua. Grazie intanto Giaconi, buona giornata, buon lavoro e tra poco un progetto dove il lavoro si unisce all'etica. Trovare un lavoro è difficile, lo sappiamo tutti. Pensate quanto può essere difficile per una persona portatrice di handicap o di disabilità trovare un lavoro. Eppure questo si può fare con dei progetti naturalmente ad hoc, come è questo di cui parliamo adesso, recentemente presentato alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano da Asti, l'Albergo Etico. Salutiamo Antonio De Benedetto, presidente dell'Associazione Albergo Etico. Buongiorno. Buongiorno. Siete partiti in sordina nel 2006 organizzando stage per ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Questa cosa è cresciuta, avete ricevuto anche un premio europeo, cittadino dell'anno. E adesso che succede? E adesso è ora di costruire questo generatore di impresa sociale sia per le persone con handicap sia per le persone normodotate che vogliono giocare questa partita nel mondo dell'handicap. Si crea un albergo vero e proprio dove insegnare il metodo Download, che è un metodo di formazione attiva per il miglioramento dell'handicap sensoriale, intellettivo e fisico attraverso le mansioni alberghiere per il raggiungimento principale dell'autonomia personale, perché senza autonomia personale non si può trovare un lavoro. E sappiamo che insomma, trovare un lavoro, un'occupazione per chi ha una disabilità a volte è sempre difficile. Quando si riesce a superarla questa difficoltà e trovare un lavoro, si sa che è una risorsa enorme perché alleggerisce il carico delle famiglie, ma anche dà, come diceva lei, questa autonomia, questa possibilità di rinascita. Com'è lavorare con questi ragazzi down, Antonio? Lavorare in paradiso. esattamente, se vogliamo. Perché? Perché sono delle persone di un tale amore, di una tale voglia e volontà. È vero. Che sanno spostare le montagne, secondo me. Noi siamo stati travolti da un ragazzo down che allora aveva 17 anni, che faceva la scuola alberghiera, che è partner oggi del nostro gruppo di azione, sì, e della scuola alberghiera di Agliano d'Asti, con la sede di Asti, dove oggi abbiamo un corso apposito per la ristorazione, per addetto alla ristorazione, che va a inserirsi in un quadro più particolarizzato, che di imprenditori e di aziende che mettono a disposizione il proprio sapere e attraverso questo download, quindi trasferimento di dati tra il professionista e il ragazzo, in questo caso il Niccolò Vallese, che fu, sì, l'anno zero del progetto. L'antesignano di tutto questo. Assolutamente sì, noi abbiamo versato il nostro sapere su di lui. Uh-huh. E abbiamo compreso dopo diversi anni che quello che facevamo non era altro che l'applicazione del metodo Montessori della dottoressa Montessori. Oddio, ci fa una citazione così assolutamente storico, cultural, pedagogico. In 30 secondi di cosa stiamo parlando quando parliamo di metodo Montessori, per i più giovani che forse non lo conoscono? Il metodo Montessori si fonda essenzialmente sulla casa. Come è costruita la casa e di che cosa è fatta. L'albergo è solo la casa a livello industriale, con questi imprenditori del settore alberghiero che ne sono i docenti, no? Più avanzati. Quindi questo metodo ha la particolarità di scrutare nelle persone, di nascere soprattutto nel mondo dell'handicap, e per poi arrivare ai normodotati. Ecco, mi pare di capire che questo settore dell'accoglienza, appunto, per vari motivi, può essere proprio un settore chiave per impiegare, per esempio, i ragazzi che hanno la sindrome di Down, ma in generale forse anche persone disabili, dove proprio in questo incontro che si crea negli alberghi, nel campo appunto dell'accoglienza, pensiamo anche all'esperienza dei ristoranti a Roma, che c'è, la comunità di Sant'Egidio se non ricordo male, tutto questo può funzionare proprio nel settore dell'accoglienza, e voi ne siete la dimostrazione con questo progetto di albergo etico. Quante persone in questi anni lei può dire di avere contribuito ad aiutare, a sistemare, a dare un futuro professionale o anche semplicemente un futuro personale? Allora, la mia azienda, che è un piccolo ristorante nel centro di Asti, ha assunto i primi due formati e su di loro ha generato tutto quello che è il progetto. Dopodiché adesso, attraverso delle borse lavoro del comune di Asti, si è ampliata questa contaminazione verso altri esercenti. Ecco, quindi facciamo un appello a questi esercenti che si facciano avanti, perché poi alla fine c'è bisogno di, appunto, di finalizzare, di trovare dei posti dove queste risorse importanti possono essere spese. Albergo Etico è il punto di riferimento, almeno in questa zona del Piemonte, per chi fosse interessato. Intanto grazie per quello che fate, che è molto, Antonio De Benedetto. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie per lo spazio che ci avete dato. Il nostro sito è www.albergoetico.it. Vi verremo a trovare, grazie, a presto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. mission impossible come quella di iscrivere i propri figli all'asilo nido. In questi giorni ci sono i genitori che vanno in giro provando, ci sono gli open day negli asili e poi si spera di rientrare nelle graduatorie comunali. C'è ancora tempo, qualche giorno, per poter iscrivere i figli all'asilo nido. Ma mission impossible anche per un altro motivo. Sentite qua la notizia riportata dal Resto del Carlino qualche giorno fa. A New York, nell'asilo nido dei super VIP, si va a iscrivere la figlia di Tom Cruise è in un asilo nido che adotta il metodo, per quanto riguarda la prima fascia d'età, il metodo importato da Reggio Emilia, il famoso Reggio Approach. Insomma, allora siamo davvero un'eccellenza anche in questo campo, anche se spesso non ce lo diciamo e siamo convinti del contrario. Io voglio parlarne con Paola Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Che è direttrice dell'Istituto Comunale Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia. Siete nel cuore dell'eccellenza. Sì, o almeno diciamo che c'è un grande interesse a livello internazionale per l'esperienza educativa dei nidi e delle scuole dell'infanzia della nostra città. Più magari all'estero che in Italia, dove poi ci si dimentica tutto, si passa sopra tutto, invece poi abbiamo delle eccellenze, è giusto saperlo, ricordarlo, coltivarle, incentivarle, questo sarebbe, no? Ci aspettiamo magari anche dal prossimo Parlamento, dalla politica, però oggi di politica non possiamo parlare assolutamente, perché c'è il super silenzio elettorale. Prima di tutto, lei l'aveva sentita questa notizia che ha rilanciato? Sì, io avevo avuto questa notizia da Io Donna, perché è stato il primo, insomma. Ma sarà vera secondo lei o è una invenzione? Ma credo che possa essere vero. Verosimile. Perché in giro per il mondo ci sono moltissime scuole che si ispirano a Reggio Emilia Approach. Noi abbiamo qua a Reggio ogni anno più di 1.200-1.300 persone che vengono in formazione, che quindi rimangono, come dire, anche molto colpiti, affascinati da questa innovazione, questo approccio molto innovativo che inizia le scuole del comune. Ecco, di Reggio, ci racconti per noi che non veniamo dall'estero, sapendo magari di questa notizia, ma che siamo in Italia e non lo sappiamo, in cosa consiste questo metodo di Reggio Emilia? Sì, innanzitutto non è un metodo, perché il metodo è una struttura abbastanza rigida e fissa, solo da replicare. La nostra è una filosofia, è un approccio, un modo di pensare e di appunto incontrare l'infanzia e pensare la scuola. Quindi è una filosofia, ma anche un'esperienza che ha al suo centro il bambino in relazione con gli altri, un bambino che viene pensato ricco di potenzialità e di creatività, di curiosità e di possibilità di apprendimento, e pensiamo che la scuola debba soprattutto offrirsi come un luogo dove i bambini possono elaborare il loro apprendimento attraverso 100 linguaggi. Cioè non è la scuola che accoglie il bambino, ma è il bambino attorno al quale si costruisce la scuola. Banalizzo, però ci vogliono i soldi, ci vogliono i finanziamenti, molti per portare avanti questo concetto, questo metodo. Perché spesso vediamo che ci sono carenze negli asili in Italia, che le liste sono lunghe, o addirittura che in alcune graduatorie siamo messi male in Europa? Guardi, in effetti sono necessari dei finanziamenti per poter avere dei servizi prescolastici che appunto non sono neanche obbligatori, però i nostri nidi e le nostre scuole sono in linea con i costi di tutta Italia, anzi in alcuni casi forse siamo anche meno costosi, perché comunque abbiamo una gestione assolutamente rigorosa. La nostra città ha scelto di investire sui servizi, i cittadini sentono insomma come loro anche questa esperienza e l'importanza dell'educazione prescolare, quindi l'amministrazione investe moltissimo sui nidi e sulle scuole dell'infanzia. Oltre questo, c'è da dire che una grande partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, alla vita del nido, e porta anche una cura verso i nidi e le scuole, che viene anche dalle famiglie, dai comitati di gestione dei genitori, e quindi una serie di risorse, non necessariamente monetarie, ma anche proprio di lavoro, di pensiero, di cura, viene da questo volontariato, da questo impegno sociale. E va bene, che dire, Paola Cagliari, direttrice dell'istruzione comunale delle scuole dei nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia, che ci ha rinfrescato un po' la memoria sul Reggio Approach. A me piacerebbe che la prima seduta del Parlamento fosse dedicata a questo, cioè che venissero tutti in omaggio da voi a imparare come si fa, perché non c'è risorsa più importante per il futuro che i bambini. E va bene, con questa cosa qua ci fermiamo per oggi. Grazie a voi di Reggio Emilia, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, a Franco Piantanelli in redazione, ad Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Valeria Bernardi oggi in regia. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona giornata, buon voto, buon tutto. Sì!